Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Oggi ho proprio desiderio di stare con voi e spero altrettanto. E allora oggi io vi porterò ad esplorare un territorio della vostra vita personale di coppia che potrebbe darvi una spinta vitale, accendere gioia di vivere, ma attenzione, se non lo curate, lo coltivate, lo presidiate, può trasformarsi in un pericoloso autogol. L'eros è la potenza primordiale che domina l'uomo, conducendolo dove vuole, anche in rovina a volte. Ha una forza indomabile, irresistibile, legata al desiderio, che oltrepassa la volontà individuale di uomini e dei. Eros, eros come sogno, come desiderio, come fantasia segreta. A volte basta una mano che si appoggia involontariamente sulla tua, un odore strano, una bocca socchiusa, una scollatura, un bottone sbagliato. Tutto questo è l'eros. Prende forma, si impadronisce di te, ti incendia. E adesso una statistica. Sapete qual è il luogo in cui vengono fatti più sogni erotici? I semafori. Pare che la durata del semaforo rosso sia equivalente alla durata media di un pensiero erotico. Certo, a volte c'è chi esagera, un rosso non gli basta. E per cui te lo vedi allo scattare del verde ancora lì, sognante, con l'occhio semichiuso, un po' di bavetta alla bocca. E tu sei costretto a suonare. Pepe, allora, sognatore distratto, rimetti i piedi per terra. Tua moglie non è Scarlett Johansson. Tuo marito non è Johnny Depp. Sono tutti e due molto, molto meno erotici. E tu lo sai bene. Ci sono persone che sono... io le definisco portatori sani di Eros. E c'è chi ce l'ha e chi no. Claudio Bisio in Manuale d'amore 2, ed è proprio vero, molti di noi vivono a fianco a donne che non sono come Scarlett Johansson, oppure a uomini che non sono propriamente come Johnny Depp, eppure osservando alcune coppie in azione, per come si muovono, per come si guardano, per come stanno in coppia appunto, ci rendiamo conto che ci sono persone che sanno essere portatori sani di Eros, che vivono la dimensione del desiderio come dimensione che dà struttura e forza alla propria vita, persona naturalmente affettiva. Saluto subito i miei ospiti che oggi ci accompagneranno in un viaggio alla scoperta del desiderio, ma credo che sarà anche un viaggio finalizzato al nutrimento del desiderio. In linea abbiamo il piacere di avere la professoressa Antonella Bertoni, direttore dell'unità operativa dipartimentale diagnostica andrologica della riproduzione e della sessualità al Santa Chiara di Pisa. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno dottoressa, grazie, è una gioia sentirla, buongiorno. Grazie, avevo proprio desiderio di parlare con lei e qua in studio abbiamo Alberto Pellai, medico, ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Professoressa Bertozzi, inizierei proprio da lei. Come il desiderio è scritto e programmato nel nostro organismo, quali percorsi della mente, ma direi anche della chimica e della biochimica segue e scrive nel nostro corpo? Sì, ha detto bene, dottoressa. Io direi intanto che sicuramente esistono le affinità elettive, ci crediamo, ci vogliamo credere, quindi l'amore e l'innamoramento sono, direi, forse non immediatamente perché all'inizio si tende un po' a idealizzare, ma nel proseguio sono dei potentissimi induttori del desiderio. Detto questo, è bene invece ricordare quello che, a cui lei faceva riferimento, che esiste anche una biochimica, sì, diciamo, del desiderio. Perché è importante ricordarlo? Perché esistono diverse situazioni patologiche in cui il desiderio è diminuito e queste situazioni possono essere corrette. Possono essere corrette modificando lo stile di vita, possono essere corrette modificando alcune terapie in corso che determinano un calo del desiderio. Allora, senza entrare molto nello specifico, diciamo che esistono a livello cerebrale delle aree particolarissime che sono deputate proprio al desiderio e che hanno avuto una sorta di imprinting in senso maschile o in senso femminile durante lo sviluppo embrionale fetale e che poi vengono riattivate costantemente dagli ormoni. Ecco allora che abbiamo inserito, diciamo, la prima cosa fondamentale per il desiderio. Nel maschio in particolare è il testosterone, quello che determina la riattivazione di queste aree. esistono nel cervello, e direi che è una cosa davvero affascinante, esistono delle zone deputate al ricordo, all'affettività, ovviamente al, diciamo, alla registrazione di tutti gli input che vengono dall'esterno. Pensate alla vista, al tatto, all'odorato, lo sentivamo prima, l'odorato che è una cosa molto evocatrice, ma anche al desiderio e al sogno a occhi aperti. Tutti questi input vengono rielaborati, soprattutto per quello che riguarda specificamente nel maschio, in una zona particolare, mm-hmm, che si chiama area preottica mediale, la quale rielabora tutto e, se tutto va nel verso giusto, manda un input particolare a certe strutture. Ma se non c'è il testosterone, mm-hmm, queste strutture non vengono attivate, non solo, ma quest'area non può mandare il suo mediatore, cioè il messaggero con cui parte l'input, non può essere liberato se non c'è il testosterone. Per la donna si parla di estrogeni, sì, però il meccanismo cerebrale è molto simile e molto complesso, molto complesso. Esistono poi delle, fra il resto, delle alterazioni sempre collegate allo stato ormonale, mm-hmm, per questo dicevo è importante modificare certi stili di vita. Certo. Basti pensare all'obesità, che comporta un'alterazione sia a livello maschile che a livello femminile proprio per gli ormoni che servono al desiderio. Dicevo che gli ormoni, fra il resto, servono a livello cerebrale anche per supportare l'attività dei neuroni. Certo. E come fanno? In questa maniera, sa dottoressa che il tessuto che riveste i vasi cerebrali è l'endotelio, mm-hmm, l'endotelio è strettamente connesso alla funzionalità ottimale e alla concentrazione ottimale di ormoni. Se non c'è una buona concentrazione di ormoni, per esempio se il nostro maschio non ha un'adeguata concentrazione di testosterone, il tessuto che riveste i vasi capillari, che permette ai vasi capillari di aprirsi e di far venire ossigeno e quindi di nutrire i neuroni, non funziona adeguatamente. Ecco allora che si hanno delle modificazioni che incidono sia sul desiderio ma anche un pochino su tutta la struttura cerebrale. Certo. E siccome l'uomo è un tutt'uno, ecco, sottolineiamo questo concetto, l'uomo e la donna sono un tutt'uno. Allora ai miei ascoltatori da casa chiedo di intervenire all'800 24 00 24, cerchiamo di provare a descrivere, a misurare il nostro desiderio. Oggi proveremo anche a, oltre a capire quali sono i meccanismi che lo generano, a coltivarlo e anche a essere sempre più desiderabili. Insomma, Alberto, il desiderio è in parte una predisposizione innata, ma io penso che vada anche educato, coltivato, allenato. E le nuove generazioni che educazione al desiderio hanno? Buona o inadeguata? Ma io credo che era davvero affascinante la spiegazione che ci faceva la professoressa Bertozzi, perché ci aiutava proprio a comprendere come la biochimica aiuta la vita, ma allo stesso modo noi possiamo immaginare che la vita aiuta la biochimica, cioè che effettivamente se noi rendiamo un oggetto come il desiderio qualcosa che può essere anche educato, appreso, coltivato, cioè ci sono dei gesti nella quotidianità che lo rendono probabilmente più bello, più possibile, più potente, allora probabilmente noi diventiamo anche dei buoni costruttori della nostra biochimica endogena. E direi che proprio pensando ai ragazzi, l'aspetto del desiderio è uno degli aspetti cruciali in un percorso educativo. Significa aiutarli a tollerare una frustrazione per cui tutto non può essere nel qui ed ora, per cui bisogna sognare, bisogna avere fantasie, che era una parola chiave nel concetto di Eros, anche raccontato da Claudio Bisio. Bisogna sapersi preparare, predisporre all'incontro, bisogna curare i gesti che renderanno possibile l'incontro. E questo, secondo me, per i ragazzi di oggi è davvero un passaggio molto molto faticoso e molto affaticato. Spesso siccome il desiderio ha anche una dimensione proprio pulsionale, puramente chimica, si può accendere da solo, lo puoi consumare in un attimo, spesso tutto quello che hanno a disposizione in termini di messaggi, di pornografia dilagante, schiacci un bottone, si tutto. Accende un mondo che esaurisce subito il desiderio, la sua soddisfazione, ecco, spesso per loro diventa un impulso da soddisfare in un istante, e questo credo che sia proprio uccidere una pedagogia del desiderio. 800 24 00 24 se volete intervenire. Intanto io saluto il dottor Cesare Guerreschi, psicoterapeuta e fondatore della Società Italiana di Interventi sulle Patologie Compulsive. Il dottor Guerreschi ha appena pubblicato un volume per San Paolo che si intitola La dipendenza sessuale, ovvero quando il sesso può uccidere. Dottor Guerreschi, buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno ai suoi ascoltatori e ai suoi le persone che sono lì presenti con lei, ovviamente. Dottore, si è molto sentito parlare negli ultimi anni di una patologia che potremmo definire di eccesso di desiderio, che sembra non spegnersi mai. Ma cosa si nasconde dietro il concetto di dipendenza sessuale e chi ne è affetto? Beh, si nascondono molte cose, come per tutte le patologie o come per tutte le dipendenze. Ovviamente non c'è un solo, diciamo, input che può sviluppare questa patologia o questa addiction, perché per noi è un'addiction e tale resterà, credo, nel tempo. E intanto dobbiamo dire che ne sono affetti sia gli uomini che le donne, forse in maggior parte, diciamo, ultimamente vediamo che sono più gli uomini, circa il 60% sono uomini, il resto sono donne. È una patologia molto molto devastante dal punto di vista proprio dell'attività che queste persone praticano, e sono persone anche di vari ceti sociali, non c'è solo la persona, diciamo così, che ha una tendenza a magari alla prostituzione, cose del genere. Non c'entra niente con la prostituzione. I nostri pazienti, sia uomini che donne, sono pazienti che soffrono realmente nel momento in cui diventano consapevoli di essere portatori di una malattia che riguarda proprio il proprio sesso, diciamo. E difatti noi diciamo che la dipendenza da sesso è una relazione malata con il sesso in tutte le sue proprie forme. Ecco, come si diventa poi? Come, ecco, perché la professoressa Bertozzi ci ha descritto un po' i meccanismi biochimici del desiderio, e Alberto ha aggiunto anche quanto sia importante alimentare il desiderio nella relazione. Ma come si diventa? Come si passa da un desiderio sano a un desiderio patologico? Guardi, non si passa da un giorno all'altro, su questo siamo tutti convinti, credo, almeno quelli coloro che sono all'interno, diciamo così, dello studio di queste patologie, perché non ha, questa patologia, questa dipendenza non ha avuto, diciamo così, vita facile né in Italia e tantomeno all'estero, dove io mi sono formato, soprattutto col professor Carnes. Ha avuto molte difficoltà perché in effetti gli studiosi dicono, ma nella dipendenza da sesso non c'è un traguardo assolutamente importante, che è l'astinenza. Io dico sì, è vero, non c'è, non possiamo mettere una persona in astinenza assoluta, questo è assolutamente vero, però c'è una serie di passaggi che fanno attraverso, naturalmente, un programma terapeutico strutturato ad hoc, al quale possono arrivare a avere un controllo sulla loro sessualità e sulla loro istintualità e anche sulla compulsione. Certamente tutto questo non avviene, come ho detto, da un giorno all'altro, avviene all'interno di un programma molto, lo descrivo, severo, nel quale io non ho sentito cosa ha detto la dottoressa Bartocci, ma penso sia state senz'altro cose molto molto interessanti, soprattutto se parla poi di neurotrasmettitori. Noi ne teniamo molto conto, i nostri pazienti sono azzerati per esempio in un neurotrasmettitore molto conosciuto, che è la serotonina. Ecco, in quel caso bisogna assolutamente che la serotonina sia attivata. Abbiamo un eccesso, per esempio, di un altro neurotrasmettitore, che è la noradrenalina, e poi un'invasione addirittura nel momento in cui si ha un rapporto sessuale della dopamina. Dunque tutto giusto, la biochimica cerebrale. sempre non sapendo cosa ha detto, perché ma qua stiamo esplorando, Alberto. Sì, la possiamo proprio richiamare in gioco, considerato proprio l'enorme lavoro clinico che lei fa. Professoressa Bertozzi, ci aiuti a capire quando in una coppia il problema del desiderio è patologico in senso eccessivo, come ci se ne accorge e qual è l'intervento a quel punto, un intervento psicoterapeutico, un intervento farmacologico? Sì, come diceva prima il dottor Guerrischi, è una patologia di solito, ecco, al limite fra lo psicologico e lo psichiatrico. E ci se ne accorge perché solitamente uno della coppia, uno dei due partner, sottolinea questo aspetto. E attenzione, anche il partner che è in prima persona imputato, per così dire, tra virgolette, vive molto dolorosamente questa situazione, quindi entrambi si rendono perfettamente conto della situazione e solitamente non si tratta qui di patologia organica, intendendo sempre nel tutt'uno dell'organismo, che deve essere visto proprio in un'unica cosa, quindi cervello e corpo, ma si tratta soprattutto di patologie di tipo psichiatrico più che organico, quindi è difficile che esista una iperincrezione di testosterone da tale da dare iper sessualità. L'unico aspetto patologico strettamente organico è dovuto o alla pubertà precoce, sì, vera, sì, o a forme di pseudopubertà precoce in cui si ha un risveglio sessuale in soggetti inadeguati dal punto di vista cronologico e dal punto di vista anche fisico, oppure anche a volte per patologie neoplastiche cerebrali, però sono molto rare. Professor dottor Guerrischi, voglio mandare però un messaggio a degli ascoltatori. Stanno arrivando già dei messaggi di ascoltatori che mi scrivono: in effetti mi rendo conto che il mio è un desiderio eccessivo. Bisogna parlarne nella coppia, bisogna chiedere aiuto, si può fare, si può, tra virgolette, guarire. Qual è lo specialista di riferimento, dottor Guerrischi? Ma guardi, lo specialista di riferimento io penso che sia, come diceva la dottoressa Bartocci, questa è una patologia che riguarda soprattutto la psichiatria, cioè lo psicologico in senso proprio più stretto. Ovviamente nella cura, nel programma terapeutico, io parlo proprio di programma terapeutico, non parlo di incontri fatti fra lo specialista e il paziente, è un programma come, ecco, per dare una dimostrazione, tipo comunità terapeutica, tanto sì, per dire, in cui la persona fa degli svariati interventi, c'è un corollario di interventi, ci sono delle multidisciplinarità che intervengono per la guarigione di questa terapia, di questo tipo di dipendenza. Quindi, è un'addiction nel vero senso della parola. Però insomma, da cui si può uscire. Questo è il messaggio che mi sento di dare agli ascoltatori che mi stanno chiedendo aiuto, perché tante volte il problema rimane confinato nella coppia e genera nei partner una sofferenza molto profonda anche nei familiari. Dottor Guerrischi, io la ringrazio per essere stato con noi. Abbiamo con lei aperto una finestra sulla dipendenza sessuale, ma la nostra trasmissione oggi è concentrata sul desiderio. Molte volte si sente raccontare, tante volte ci si domanda se con gli anni in una coppia il desiderio tende a calare, come si mantiene vivo. Dottor Guerrischi, intanto la saluto e do la linea subito a Chiara, che ci chiama da Modena. Buongiorno Chiara. Buongiorno. Buongiorno a lei. Guardi, infatti parlavate di caso del desiderio, delle coppie. Io sono sposata da due bimbe piccole, sto ancora allattando e siamo sposate, ci conosciamo da tanti anni. In effetti quando vedo mio marito lo trovo bello, erotico, mi piace molto, però non c'è quella spinta successiva poi a essere sensuale, eccetera. Un po' io non mi sento Scarlett Johansson, in effetti. Beh, devo dire che neanch'io, però insomma, no? Chiara, anche noi abbiamo le nostre carte da giocare, come si dice, perché no? Senta, però mi chiedevo se anche proprio l'allattare, o magari è lo stress di avere dei bimbi piccoli, eccetera, però effettivamente poi manca la parte successiva, ecco, al desiderio, che è quello che fa scattare poi il resto, la parte erotica, insomma. Essere e benessere. Sei mai riuscito una volta a dirmi una cosa di tua iniziativa? Mi dispiace, anche a me. Ti amo, anch'io. Sei mai riuscito a dirmi una cosa, che ne so, che belle gambe che hai, per esempio, così, di tua iniziativa? Mai. Vabbè, forse le gambe non ce l'ho belle, però qualcosa di carino, di una cosa sdolcinata, cretina, però che ti viene dal cuore. Ma poi guarda, forse sto dicendo delle scemità, io... è che così non sto bene, Vincenzo, sto male, io non mi sento amata, non mi sento desiderata, non mi sento niente, io ti devo lasciare. Come tenete vivo il vostro desiderio di coppia e cosa secondo voi lo ha fatto un po' diminuire, calare, spegnere? Mandateci un sms al 349-238-6666, ma soprattutto chiamateci all'800 24 00 24 perché stileremo una classifica, Alberto, no? Dei fattori protettivi e di quelli di rischio. Secondo i nostri ascoltatori, concentrandoci proprio sulle vostre storie di vita vera, di vita vissuta, cosa succede nella vostra coppia, e secondo me è molto importante anche sentire storie in cui voi siete riusciti a rigenerare, risvegliare il desiderio, siete usciti da un tunnel, insomma. Professoressa Bertozzi, rispondiamo a Chiara, perché ho visto che la sua telefonata ha richiamato molto interesse da parte delle nostre ascoltatrici. Chiara sta allattando, ha due bambine piccole, è stanca, vede suo marito, lo vede bello, ma qualcosa si è spento, insomma, un po' affievolito, addormentato. È colpa, tra virgolette, dell'allattamento? Ci sono dei momenti della vita di una donna in cui questo calo del desiderio è fisiologico? Io desidererei proprio rispondere a Chiara, che così carinamente si è inserita nella trasmissione, così dolcemente, e desidererei rassicurarla. Perché durante l'allattamento c'è un ormone particolare che si chiama prolattina, che aumenta proprio per permettere l'allattamento. E notoriamente la prolattina è un ormone che tende a diminuire il desiderio, con un meccanismo abbastanza complesso che non sto a ricordare perché è inutile, ma diminuisce il desiderio. Questo perché, dottoressa, così lo spieghiamo bene a Chiara, perché anche se la sessualità riveste nella società moderna un aspetto estremamente variegato, sfaccettato, come diceva anche il dottor Pellai prima, comunque è finalizzata alla riproduzione della specie. Certo. E quando la natura sa che deve essere allevato il cucciolo, tende... Tutto passa in secondo piano, diciamo. Bravissima. Così, professoressa Bertozzi? Tende a mettere tutto il resto al secondo piano. Fra il resto, Chiara ha detto una cosa così carina di suo marito, cioè che ancora l'attrae, che è un bell'uomo, eccetera. Io gli suggerirei di dirglielo questa cosa, perché se noi donne desideriamo essere coccolate, amate, vezzeggiate, ci dobbiamo sentire desiderate, altrettanto gli uomini, purtroppo io lo vedo nella mia pratica ambulatoriale quotidiana, che si dà per scontato che l'uomo debba, spesso si dà per scontato, debba avere una buona sessualità, debba essere lui che comunque coccola la donna, prende l'iniziativa, ma non è così. Non è che il sesso sia identificabile sempre nell'amore, ma soprattutto in una coppia stabile, è uno dei tanti aspetti importantissimi dell'amore. Quindi anche le signore devono far sentire desiderate il proprio partner, questa è una cosa fondamentale. Allora, facciamo sentire desiderato il nostro partner, lo chiedo alle mie amiche, all'800 24 00 24, e lo chiedo anche agli ascoltatori amici, perché tante volte, come abbiamo sentito nel breve estratto del film, scusate il ritardo, si saranno sentiti dire dalla propria compagna: non mi fai mai un complimento, non mi fai mai sentire attraente, desiderabile. Alberto, c'è bisogno di un bon ton sentimentale. Ma credo che questo sia fondamentale, tra l'altro, proprio riprendendo il discorso di Chiara, il bon ton sentimentale sentimentale spesso svanisce, a volte evapora nella coppia con bambini, perché i compiti di accudimento, l'essere diventati madre e padre, spesso fanno davvero annebbiare l'uomo e la donna che sei stato. Tra l'altro, la prolattina aumenta anche nel corpo dell'uomo subito dopo la nascita del cucciolo d'uomo. Ci copiate sempre. E conseguentemente si riduce il livello di testosterone che viene prodotto nel neopapà. Ecco perché il desiderio sessuale dopo il terzo o quarto mese di vita va proprio acceso e rialimentato con i gesti, con gli sguardi, con le parole, e deve essere, per così mi guardi in un modo, no, che sto imparando, deve essere proprio coltivato. Spesso gli uomini sono proprio capaci anche un po' di sottrarre la mamma all'abbraccio simbiotico del suo bambino e a rifarla, riportarla davanti allo specchio, vedendosi non solo come mamma ma anche come donna. Allora, ma io voglio leggermi il messaggio di Sara, che ci scrive: ma bisogna fare l'amore anche se non se ne ha tanta voglia per continuare a tenere vivo il desiderio, oppure no? Professoressa Bertozzi. Bella domanda quella. Sì, perché mi sembra una domanda interessante, perché l'astinenza alla fine complica molto la situazione, ci si sente poco amati, si perde questo codice, questo linguaggio, perché anche fare l'amore con il proprio compagno è una relazione, è un modo di comunicarsi. Certamente, e l'astinenza direi che pian pianino proprio determina un ulteriore distacco. E a questo proposito bisogna dire che spesso l'astinenza si verifica in una coppia, anche nelle coppie giovani, perché purtroppo esistono moltissimi fattori patologici, metabolici ma anche comportamentali nei soggetti giovani che portano al calo del desiderio. Sì. Per esempio le droghe cosiddette leggere, che definirle così è tragico, ma sì, chiudiamo questa parentesi. Dicevo, spesso per esempio nelle coppie in cui uno dei partner ha un problema sessuale, per esempio il signore che ha il diabete, che è iperteso, prende farmaci che aumentano la prolattina eccetera, e quindi ha un problema di erezione, succede quasi automaticamente che l'uomo tende a diminuire la frequenza del rapporto per, diciamo, non avere la mortificazione di non avere un'erezione valida. Quindi tende a non cercare la partner, in fondo per non essere umiliato, fra virgolette, certo, anche se ha una ottima partner. Quindi è una diciamo, vive questa situazione come una diminuzione enorme. La donna, d'altro canto, tende a non prendere iniziativa per non mettere in imbarazzo il proprio partner. Ma in realtà questo crea un distacco ulteriore che sia psichicamente, ma guardi dottoressa, anche fisicamente crea un ulteriore problema proprio organico. Quindi anche fisicamente non avere rapporti comporta non è una buona soluzione. Un problema ulteriore. Certo. Quindi non è assolutamente una buona soluzione, soprattutto ora che abbiamo delle mezzi diagnostici elevatissimi e anche mezzi terapeutici molto elevati. Allora, intanto continueremo con i nostri consigli, daremo la linea a Nicola che ci chiama da Padova e Anna da Roma. E a proposito di consigli, io vi ricordo i nostri consigli quotidiani: entrate ogni giorno nel nostro laboratorio del benessere, dove i nostri esperti quotidianamente vi suggeriscono consigli per prendervi cura di voi, del vostro benessere, della vostra salute. Consigli molto semplici da mettere in pratica subito. Basta andare sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e cliccare sul Daily Lab. Essere e benessere. Che c'è il nostro matrimonio ormai? Che c'è? Che cosa assomiglia ormai il nostro matrimonio? A chi? Al rapporto di un concierge di un albergo a 4 stelle con il cliente. Buongiorno, buonasera, cosa c'è per pranzo, cosa c'è per colazione, questo è. Queste si chiamano premure affettuose. Premure di un marito. Ma tu lo sai come passi le due serate, lo sai sì o no? No, perché tu non sei cosciente di quello che fai. Tu la sera ti chiudi in camera, ti metti in testa quella cuffia e ascolti le canzoni di 30 anni fa, non quelle di ora, quelle di 30 anni fa. Mi neghi la mia intimità. Non ci sei lontano, Gilberto, stai da un'altra parte. La sera vieni a letto, sai cosa fai quando vieni a letto? Buonanotte, buonanotte, ma senti, gira dall'altra parte. È così. Poi il matrimonio, bel matrimonio. No, scusa. Tu lasciami andare, Gilberto, lasciami andare. Ti chiedo un minuto, Tiziana. Ho diritto a un minuto. Allora, scusa amore, spesso mi è capitato di ascoltare, di leggere che dopo 20 anni di matrimonio c'è una naturale flessione fisiologica, c'è come un calo del desiderio, e soprattutto sai dove l'ho ascoltato? nella tua trasmissione. Ah no, questa è una vigliaccata, c'è per te. È una vigliaccata. Questa è una vigliaccata. Tu l'hai detto a una coppia di Trieste. L'hai detto. Non usare la mia trasmissione. A una coppia di Trieste. No! Alberto Pellai ride come un matto perché non si possono fare trasmissioni così di questo tipo. Speriamo che i nostri compagni e compagne non ci stiano ascoltando. 800 24 00 24 abbiamo Nicola da Padova e poi Anna da Roma. Buongiorno Nicola. Buongiorno. Sì, da Cittadella in provincia di Padova. Bene. Allora, io da alcuni anni che soffro di ipertensione. Sì. La cosa mi comporta che devo prendere dei farmaci. Sì. Farmaci che ho notato mi abbassano il desiderio. Sì. Mi abbassano il desiderio, quindi il rapporto sessuale con mia moglie logicamente ne ha risentito un po'. Sofferto. Ne ha sofferto. E quindi la mia domanda era: dato che devo comunque continuare a prendere per forza di cose i farmaci per l'ipertensione, come? Se c'era la possibilità di cercare di magari parallelamente per aumentare il desiderio, se esistono dei farmaci, se esiste qualcosa da poter prendere. Grazie Nicola. Professoressa Bertozzi, rispondendo a Nicola, risponde a tanti ascoltatori, certo, che sì, mi hanno segnalato Nicola. La terapia antipertensiva in alcuni casi dà questo sgradevole effetto collaterale, d'altra parte la pressione va monitorata e tenuta sotto controllo, e quando i farmaci sono necessari è importante assumerli. Che fare? Sicuramente i farmaci vanno assunti e non vanno demonizzati, però c'è una scelta nei farmaci e questo Nicola lo deve sapere, perché può modificare, ovviamente con l'ausilio del suo medico di medicina generale, la terapia che sta facendo, perché nell'ambito dei farmaci antipertensivi esistono dei farmaci che più rapidamente e frequentemente inducono il calo del desiderio e inducono anche il deficit erettivo. Quindi bisogna fare un'analisi accurata del farmaco che sta prendendo, perché ci sono farmaci, per esempio i diuretici, che determinano un aumento della prolattina. Quindi se Nicola sta facendo un farmaco diuretico o in associazione antipertensivo diuretico, questo va modificato. Lo modifica col suo medico di medicina generale, lo modifica eventualmente con lo specialista, lo può modificare anche chiedendo ausilio di un andrologo che ogni giorno si confrontano, diciamo, confronta. Con questi. Ecco, mi sembra molto importante sottolineare questo aspetto, soprattutto parliamone con il medico curante, non ci rassegniamo, tante volte subiamo questi effetti collaterali e invece potrebbero riuscire a trovare una terapia confezionata proprio su misura per noi. Anna da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Complimenti per la trasmissione che seguo praticamente quotidianamente. Oh Anna, che bellezza, grazie. Senta, io volevo così riportare un'esperienza. Ho 23 anni di matrimonio, periodi chiaramente di alti e bassi. Alti e bassi, esatto, dovuti sicuramente non alla mancanza di amore, di attrazione, di affetto, ma allo stress che provoca lavorare entrambi. Sì. Perché purtroppo quando si arriva e si è distrutti è difficile poi avere quei momenti di pausa, di tranquillità. Ma certo, è vero. Che ci fa guardare negli occhi l'altra persona. Questa è una cosa importantissima. Io mi sono trovata poi dopo un periodo di 3 anni in cui ci siamo separati, ma separati diciamo in cui non sentiva la mancanza di affetto, ma fisicamente, sì, proprio per questa stanchezza, di problemi che si erano, non riuscivamo più neanche a guardarci negli occhi, insomma. Ecco, farsi quando la quotidianità esonda e toglie proprio spazio all'intimità, che dobbiamo, è proprio un orticello che dobbiamo preservare e coltivare, perché nutre anche i nostri figli, no? Una coppia con un'intimità sana, profonda, sì, una coppia che nutre. Che nutre, e tra l'altro lo spazio della sessualità non può essere uno spazio di routine, ma è proprio una di quelle aree che si chiama ludiche nella coppia, cioè dove il piacere è un aspetto che deve essere voluto, presidiato e non può essere abituato. E quindi? E quindi, per esempio, quello che ci ha detto la nostra ascoltatrice è un modo straordinario. Se avete un calo del desiderio, se siete in stallo rispetto alla vostra esperienza sessuale, provate a pensare qual è il cambiamento che già da oggi potete fare. Un cambiamento che può essere proprio un cambiamento di sapori, gusti, emozione, atmosfera, voglio farmelo suggerire da Filippo Lamantia, grande chef. Oh, Filippo, buongiorno. Toccare il cibo, manipolarlo, impastarlo. Quello è importantissimo, quello è quello che io dico a tutti i miei clienti o la gente che viene in cucina da me, appunto per avere questo approccio col cibo. Il cibo, per capirlo, deve essere toccato. Inutile che praticamente che ci distacchiamo dal toccare, che so, il pesce o la carne cruda o il tonno che purtroppo c'ha il sangue. Il fatto è che dobbiamo essere consapevoli di quello che mangiamo, tutto qua. Dobbiamo essere consapevoli anche che nella preparazione di un cibo, nella descrizione di un piatto, le famose cenette romantiche, Filippo, possono in qualche modo preparare un'atmosfera che ci aiuta ad occuparci di quell'intimità, no? A preparare quell'intimità che è assolutamente terapeutica, sana, vitale. Abbiamo un elenco di sfizi, di suggerimenti, di ingredienti da raccontare ai nostri ascoltatori brevemente, una manciata di secondi? Ma io, guarda, io praticamente, guarda, che sponsorizzo la cucina leggera, la totale assenza di aglio, la cipolla, praticamente, quindi un cibo profumato, sensuale e digeribile. Quindi praticamente di cotture brevi, e la coppia deve assolutamente rintanarsi in casa e cucinare, praticamente, perché è un rito. Il rito della cucina insieme a quello dell'Eros, tutto qua. Grazie a Filippo Lamantia, grazie alla professoressa Antonella Bertozzi ed Alberto Pellai. Io vi devo salutare, ma l'appuntamento, come sempre, torna domani dopo il GR delle 11. Buon desiderio. Essere e benessere.